Ma questo mi sembra un po' tipico dell'Italia. In Italia dobbiamo osannare quando si vince e siamo subito pronti a criticare quando si perde. In realtà sia la Ferrari che la Ducati fanno un lavoro incredibile contro aziende, soprattutto la Ducati in questo caso, molto più grosse. In Formula 1 le cose sono un po' cambiate, non ci sono più tanti costruttori direttamente coinvolti, però comunque insomma, la Ferrari ha avuto la capacità di vincere il mondiale anche quando c'erano coinvolte case molto più grosse di lei. Sono due icone del Made in Italy, due aziende che hanno portato, portano e porteranno il Made in Italy in giro per il mondo. Non bisogna, quando le cose non vanno bene, essere subito negativi. È chiaro, non si può vincere tutti gli anni, questo è una cosa che è la parisiana. L'importante è essere competitivi, essere protagonisti. Io sono sicuro che sia Ferrari che Ducati lo saranno.